Una buona sera a Radio Città Fujiko in compagnia di Max Macchia, 451 Frammenti Sonori, che ritorna appunto a voi già dalla scorsa settimana in compagnia di Eliseo Scarpa, che nel frattempo saluto, compagno di mille viaggi, di avventure e anche di disavventure, perché no? E quelle ci sono sempre, no? Ci mancherebbe. E questa sera 451, chiaramente ricordiamo anche Lorenzo Albano, che forse ci siamo scordati anche sia io che Eliseo, quindi come dire, io mi faccio una piccola tiratina di orecchie, Lorenzo Albano che cura insomma la faccenda blog, decisamente importante, 451 frammentisonori.noblogs.org, e che tra l'altro quest'anno ha questa novità, quindi un in più, un plus che diamo, e non un plus, non vi confondete ovviamente, e un plus che viene da 451 Intersezioni, che spero avrete sentito lunedì appunto in compagnia di Eliseo Scarpa, e dentro appunto il blog troverete queste altre trasmissioni caricate con appunto le tracklist e qualche parolina di riferimento, qualche volta qualche parolina di meno, qualche altra volta qualche parolina di più, ma insomma poi dipende un po' come gira. Questa sera gira 451 frammenti sonori con suoni in movimento, andremo alla ricerca di quello che è la spazializzazione del suono e la composizione attraverso lo spazio, il movimento anche fisico se vogliamo delle stesse strumentazioni che creano e che quindi generano suono. Se pensiamo al primo personaggio che metteremo, che tra l'altro è collegato anche a una faccenda che interessa 451 frammenti sonori, Gordon Monan, andiamo immediatamente a trovare questa spazializzazione, visto che addirittura proprio le stesse casse, le stesse gli stessi strumenti che emettono suono vengono addirittura utilizzati per creare e per comporre sonorità e quindi spazializzare poi la stessa musica e comporre attraverso appunto questa spazializzazione. Gordon Monan, che sarà a Spazio Aereo in quella di Marghera, quindi insomma evento piuttosto grosso, il canadese non è facile da vedersi, personaggio poco conosciuto, però di sicuro approccio per quanto riguarda chi si vuole così dimensionare con lo spazio sonoro, con quello che è la riflessione legata appunto a questo e anche appunto alla attitudine compositiva che questo può creare, appunto lo spazio come luogo non soltanto di riflessione, come molte musiche che anche ascolteremo questa sera, più o meno legate al field recording, quindi alla cattura del suono più o meno naturale, sia come veniva inteso dai concretisti, ma poi anche quel gestualismo che diventa anche metodo compositivo, quello ovvero di creare attraverso degli ambienti vere e proprie sculture sonore, quindi siamo vicini anche molto a questa disciplina, molte cose si interfacciano anche in maniera interessante, se non addirittura implementano. Con Gordon Monan sicuramente siamo a quei livelli. Spazio Aereo si occuperà appunto, e Gordon Monan si occuperà e occuperà di fatto Spazio Aereo in quella di Marghera a Venezia dal 24 al 26, sono giornate di workshop, Dimensioni del suono è il titolo, che già la dice lunga insomma sul lavoro che si farà con il canadese, ovvero aspetti del fenomeno sonoro in relazione al movimento, come dicevo prima, alla ricerca compositiva nello spazio, nella spazializzazione, quindi anche inteso come concetto e come possibilità insomma data dall'utilizzo dello spazio, E quindi come una sorta di partitura infinita, aperta, decisamente aperta. E, ci sarà tra l'altro tra il 24 e il 26, il 25 sabato, Giuseppe Ierasi, musicista contemporaneo italiano, dedito ad elettroniche molto vicine a quelle di Gordon Monan, non è un caso che eseguirà proprio uno storico lavoro di Gordon Monan, speaker swinging, quindi sì, lo swinging degli speaker, proprio perché, come accennavo prima, viene proprio a crearsi un ambiente sonoro e un suono che diventa anche in una certa qual maniera autocompositivo, no? Perché comunque viene proprio utilizzato il movimento che non può essere calibrato proprio in maniera precisa, quindi ci sono anche proprio quei momenti anche decisamente interessanti a livello musicale, sonoro, di sfasamento oppure di appunto apertura di momenti che vanno appunto a ricreare lo stesso ambiente, quindi in questo senso si aprono poi alle possibilità sonore degli stessi ambienti amplificati. In effetti poi nel workshop che potete comunque andare a studiarvi meglio con sicuramente l'indirizzo con www.spazioaereo.com, www.spazioaereo.com, dove appunto si utilizzeranno gli strumenti di base per l'amplificazione e il controllo di queste sculture sonore tramite delle capsule piezoelettriche e il patch Arduino, quindi avrete modo, insomma, per chi parteciperà di fatto, insomma, di spazializzare e di creare appunto un proprio suono e di sperimentare con questo dentro uno spazio. Appunto citando Ierasi, che il sabato 25, quindi stiamo parlando insomma tra una decina di giorni della faccenda, andiamo proprio a sentire quello che eseguirà però nella versione originale di Gordon Monan, un pezzo strepitoso degli anni Ottanta. Se vi capita, andate anche a vederlo su YouTube, d'altronde anche su spazioaereo.com troverete appunto questo link legato a una performance video, perché insomma poi c'è anche quest'altro, in questo senso poi l'interdisciplinarità delle opere diventano anche un plus anche qua, che ci porta insomma opere d'arte multimediali nel vero senso della parola, ed è molto interessante vedere queste performance come performer come rotano con loro stessi e fanno roteare poi a loro volta queste casse in maniera anche piuttosto coreografica, molto molto suggestiva, oltre che sonoricamente molto importante. Ci andiamo appunto a sentire Gordon Monan dal suo swingare per casse, ovvero speaking swinging. Sicuramente avrete avuto un'idea, seppur vaga, di quello che può essere una performance di Gordon Monan, canadese del 56, quindi insomma artista che proviene insomma anche da un certo pedigree, anche se non è proprio esattamente bello dire così, diciamo che viene da un percorso legato alle musiche d'avanguardia, soprattutto il primo periodo legatissimo a Cage, con cui ha anche studiato tra l'altro, e si è formato appunto come pianista, di conseguenza insomma l'arte del grande musicista americano John Cage è stato un punto di riferimento, forse non tanto per le composizioni aleatorie e quello che è stato comunque dei grandi momenti delle musiche di Cage, ma più forse per quell'inquietudine, quell'irrequietezza incredibile che rappresentava Cage anche nel suo uscire dalla musica per darsi al Fluxus, ad esempio, come un movimento di neoavanguardia, e quindi alla performance inteso in senso molto largo. Pensiamo ad esempio al treno proprio organizzato qua a Bologna, quindi con una sorta di scultura sonora viaggiante, quindi un vero anche proprio rompimento, una vera e propria rottura di quello che è stato insomma anche un panorama musicale con cui Cage e da questo prendere mosse anche Gordon Monan ha sempre così manipolato in senso giocoso, e con questo spirito anche un po' fanciullesco, no, se vogliamo. E Gordon Monan è proprio anche così, avendo questa voglia appunto di sperimentare, di andare oltre insomma anche quello che è la sperimentazione musicale, ha creato appunto queste installazioni sonore, questo soprattutto questo ragionare e comporre poi attraverso il movimento della stessa strumentazione utilizzata, oppure addirittura, come abbiamo sentito con Speaker Swinging, le stesse casse, quindi coloro che emettono il suono, se vogliamo insomma personificare anzi questo suono. A volte con Gordon Monan l'oggetto diventa appunto soggetto, in questo senso c'è anche questo gioco molto molto particolare di interazione e addirittura proprio di ribaltamenti anche dei ruoli. Questo tra l'altro lo potete appunto vedere dal 24 al 26 ottobre Marghera, Venezia, appunto dentro questa Dimensione del Suono, che è un workshop, tra l'altro prima ho dato l'email per un'iscrizione, comunque andate chiaramente sul sito che è spazioaereo.com, l'iscrizione appunto tramite mail potete farla con formazione@spazioaereo.com, e dove appunto potrete sperimentare con strumentazioni legata al patch Arduino e a microfonazioni piezoelettriche, e dove potrete anche vedere, questo indipendentemente anche dal workshop, anche Giuseppe Jelasi il 25 alle ore 21, e se voleste saperne di più insomma il sito, ma già vi accenno insomma che il Parco Scientifico Tecnologico di Venezia, Spazio Vega, rinominato così insomma, e poi attraverso appunto Spazio Aereo, e con Gordon Monan quindi si va a toccare quella anche in materia sonora così sfuggente, appunto legata a un movimento anche perpetuo per tanti aspetti. E Gordon Monan, sempre per trovare un altro storico lavoro, lo andiamo a prendere da addirittura, e qua trovate anche un po' il gioco che tra l'altro corrisponde anche a un progetto così abbastanza assurdo, assurdista, di Gordon Monan, che Fuzzy Love, ovvero una banda di squinternati che rifanno cover con tastiere Casio, ma anche cose ben più così ben più bambinesche, anche proprio strumenti giocattolo, rifanno cover di pezzi molto molto famosi, divertendosi e facendo appunto della splendida e meravigliosa cagnara, momenti di dada gioco veramente incredibili. Anche questi, insomma, li trovate su internet tranquillamente, potete vedere i giochi di Gordon Monan, quindi non soltanto come dire la seriosità, che poi non è mai tale, insomma, quando c'è una forte comunque componente sperimentale, non si scende mai, insomma, dentro l'accademia fine a se stesso, perché sennò finisce la sperimentazione e ce lo insegnano le avanguardie e le neoavanguardie, ma senza dilungarci in questa faccenda. Però insomma, sicuramente in termini scoperti questo Fuzzy Love, e quindi questo momento ludico giocoso di Gordon Monan, ci dà altre informazioni su appunto il personaggio. Ma noi invece l'andiamo a prendere da un altro splendido lavoro, che è Theremin in the Rain, appunto il movimento, di fatto il primo strumento elettronico riconosciuto come tale, il Theremin, che proprio sviluppa il suo suono attraverso il movimento delle mani, queste due specie di antenne appunto passate con la dovizia, insomma, di Gordon Monan, di grandi teremisti, ricordiamo Clara Rockmore, grande, eccezionale, forse la più grande teremista di sempre, e producono appunto questi suoni che sicuramente, insomma, non vi devo stare a dire io quali sono, mi ricordate in tanti film horror utilizzatissimo negli anni 50, appunto la grande invenzione di Leon Theremin in quel di Russia pre-rivoluzionaria, e quindi capite anche di che anni stiamo parlando. Theremin in the Rain è appunto l'utilizzo del theremin in maniera piuttosto fantasiosa, del movimento, quindi dell'oscillazione del theremin sotto la pioggia, con effetti decisamente esileranti anche in molti momenti, e anche lirici, perché no, di Gordon Monan. Ce l'andiamo appunto ad ascoltare. So. Thank you. come un po' avete capito, appunto avremo messo in onda Giuseppe Jelasi, che appunto sarà il 25 a Spazio Aereo, e appunto si produrrà nella bell'opera, opera importante appunto per questo 451 suono in movimento, e non solo evidentemente, anzi è poca cosa questa di 451 rispetto insomma a un lavoro sulla spazializzazione veramente incredibile, quello di Gordon Monahan, che abbiamo mixato con il suo Theremin in the Rain. All'inizio della trasmissione abbiamo ascoltato Speaker Swinging appunto, e Giuseppe Jelasi, che appunto si produrrà nel capolavoro, insomma, anche se purtroppo mi sconosciuto, di Speak and Swing, appunto, di Gordon Monahan. Giuseppe Jelasi, che abbiamo ascoltato invece dalla sua ultima fatica, tra l'altro legata alla Senufo Edition, etichetta che come la Buindo e anche la Fringe è assolutamente insomma dedicata a sonorità e a catturatori del suono, non solo in movimento ma anche a tutto quel mondo della field recording, che di conseguenza si rapporta allo spazio, seppur magari appunto più sulla non sulla costruzione attraverso lo spazio, se non in alcuni momenti, ma più proprio a una vera e propria ricerca del suono, e quindi in questo senso di cattura viene ripreso il suono in quanto tale naturale, oppure modificato, manipolato, per rendere ulteriori ambienti, ulteriori spazi, magari immaginativi, magari fantastici, altre volte invece decisamente più concretisti. Jelasi in questo Rhetorical Island gioca per molti versi insomma con la sua strumentazione, con i suoni che diventano insomma battiti e momenti anche così non soltanto cerebrali ma anche quasi fisici, tra microsonorità e macro momenti appunto che spaziano dentro una specie di vuoto, per poi riempirsi anche in maniera così baldanzosa, si potrebbe dire, appunto in estri ritmici e in momenti anche di suono decisamente pieno, e per tanti versi molto vicino, iniziano proprio la carriera insieme Jelasi e Giuseppe Jelasi e Domenico Sciaino, torinese trasferito, Giuseppe Jelasi è milanese, così diamo anche un po' di geografie, anche perché la geografia è molto importante per Domenico Sciaino, che iniziò appunto con Jelasi, la prima produzione è proprio legata a tutte e due, è un lavoro a doppia mano, a doppia testa anche per tanti versi. E Sciaino, che forse più che Jelasi si dà a un concretismo anche a volte decisamente potente, momenti anche di rumorismo intenso, e forse se si può parlare insomma di cattura del suono, di suono che viene come dire rubato all'ambiente per poi ridargli nuova vita, nuova costruzione musicale, sicuramente Sciaino con le sue microfonazioni e con le sue ambientazioni. Tra l'altro andiamo a prendere, appunto qua c'entra anche molto la geografia, perché Sciaino si è trasferito anche in maniera piuttosto insomma così originale a Palermo, dove i suoni, è una città decisamente sonora, per chi c'è stato, e spero la maggior parte di voi avrà sicuramente insomma avvertito questo eterno suono che c'è dentro Palermo tutte le ore, una città sonora di per sé. Sciaino in quest'opera che andiamo a prendere che Dove Day in Palermo appunto si diverte appunto con sonorità che così ricordano appunto sonorità volatili probabilmente e sì che ci riportano insomma a un ambiente concreto, a un suono che rimanda a degli ambienti di fatto, seppur magari non immediatamente riconoscibili come rumori definiti, rumori dati da questo, da quell'altro oggetto sonoro, oggetto trovato, ma da così momenti che si fanno anche appunto immaginativi, decisamente evocativi, appunto in questo senso Palermo c'entra e come. Ci andiamo appunto ad ascoltare Domenico Sciaino da questo gioiello che è Dove's Day in Palermo. Da tra l'altro Bowindo che gestisce insieme a Giuseppe Jelasi, tanto a chiudere un cerchio.